Avventurieri, i briganti si schierano davanti a voi, formando un mezzo cerchio perfetto di 180 gradi. Ciascuno di voi affronterà un quadrante. La forza dei nemici in ogni settore si calcola dividendo i gradi del quadrante per 10. Potrà sembrare complesso, ma tra poco ogni dubbio svanirà.